Imparo lo Zohar con Rabbi Michael ben Pesach Portnar. Parte prima, Baderek El Asulam, sulla via per la scala. Lezione 9. Questo pomeriggio uno dei membri del nostro corso mi ha telefonato. Aveva seguito l'intero corso di base e mi disse che voleva smettere perché non aveva abbastanza conoscenze per capire lo Zohar. È una donna molto simpatica e saluta tutti, eccetera. Quindi viene per ognuno di noi un momento dove si deve prendere una decisione per se stessi. Nel mio studio della Kabbalah devo riconoscere che ancora non capisco. E in quel momento devi sollevare la fede. So che è facile dirlo, ma tutti devono trovarlo da sé. Ma comprendere che al limite della comprensione, non comprensione, lì trovi la salvezza. Qui al confine viene il momento in cui non capisci perché è più elevato di quanto tu possa gustare. In quel momento è mezzo addormentato, come se fossi seduto nell'oscurità. Quello è il momento in cui puoi fermarti o continuare. Ricorda Mosè quando salì sulla montagna. Non c'è altro modo. Devi andare più in alto e poi arrivi alle nuvole. Sembra offuscato. In quel momento non capisci nulla, non senti niente. Ma non è per sempre, perché passo dopo passo ne gusti il sapore. Ovviamente la fortuna è necessaria, ma devi prenderti cura anche di quella fortuna, spingendoti così puoi ricevere la luce. Per ognuno di noi è possibile ricevere la luce quando si continua. Quando ho iniziato non avevo assolutamente alcun gusto, non aveva alcuna logica e le descrizioni sul giglio e così altro. Volevo formule istantanee che potessi capire. Una persona beta ha bisogno di formule. Ogni lezione che provo a dirti c'è del lavoro da fare. La comprensione è un fatto inamovibile e ciò che stiamo facendo è il processo di comprensione e non la comprensione stessa. Abbiamo già avuto 8 lezioni e abbiamo imparato un paragrafo, una ot. In tutti i corsi in tutto il mondo sarebbero molto più avanti. Qualche anno fa in Israel hanno dato 6-8 pagine in 2 ore. Ma è possibile digerire questo? Quello che stiamo facendo è più facile. La lingua che stiamo usando nella lezione è molto più semplice di 2 anni fa. Il più spirituale non è un linguaggio artificiale, ma semplice. Quando non c'è comprensione, ripeti, ripeti e ripeti, e desidera interiormente che ti aiuterà, anche se non capisci. Dopo questo, il nome Elohim è citato ancora una volta nel passaggio. Elohim espande il suo sé. Bereshit 1. Punto 2. E perché questo è menzionato ancora una volta? Per lasciar venire fuori le 5 foglie dure che circondano il giglio. E queste 5 foglie rappresentano i 5 cancelli della salvezza. E su questo segreto è scritto nel poema: Solleverò il calice della salvezza. Tehillim 116/13. Questa è la coppa delle benedizioni che si alza dopo un pasto. La coppa delle benedizioni deve stare su 5 dita e non di più, proprio come il giglio poggia su 5 foglie dure, che rappresentano le 5 dita. E questo giglio è la coppa delle benedizioni. Dalla seconda alla terza menzione del nome Elohim ci sono 5 parole che sono tradotte come muoveva sopra la superficie delle acque e disse. E queste parole sono parallele alle 5 foglie. Da questo punto sul poema continua. Elohim disse: Ci sia luce. Bereshit 1.3. dopo che la luce fu creata, fu nascosta e chiusa nel Brit, unione. Entrò il giglio e la fecondò. A questo è riferito come un albero che porta frutti dove c'è un seme. Bereshit 11. E questo seme è il Brit. Commento a Sulam. E poi è chiamato eccetera. Lui scrive eccetera perché non vuole citare l'intera frase. E dopo che il nome di Elohim è menzionato ancora una volta. Abbiamo detto nella prima frase della Torah che il nome Elohim è menzionato per la prima volta. Nel principio Hashem Elohim, che è Binah, creò, e poi 13 parole erano il cielo e la terra, eccetera. E poi di nuovo il nome di Elohim. Ci ha detto che queste 13 parole si riferiscono alle 13 qualità di misericordia. E ora ci sta dicendo ciò che è scritto tra la seconda e la terza volta che il nome Elohim è usato nella Torah, nella Genesi, a Bereshit. Nota che ogni parola nella Torah è molto importante. Che vuol dire di Elohim che si aleggiava sull'acqua? Questa è la terza volta che il nome Elohim è usato. E perché è menzionato ancora? Quello è fatto per lasciare uscire le 5 foglie dure. 5 foglie dure. Cosa si intende con questo? Lascialo solo accadere, passo dopo passo. Lentamente impareremo ogni cosa. Questo è il modo più semplice. Lo Zohar è semplice. Hai solo bisogno di orecchie per sentire. Siamo noi che siamo complicati. Ecco perché non possiamo sentire lo Zohar. Per quanto riguarda l'eternità, dobbiamo impostarlo in modo semplice, che capiremo. La mia gente non capisce una parola. Per loro è solo uno splendore della divinità quando è intellettuale, quando ci sono implicazioni logiche complesse. E lo Zohar parla a un livello molto alto. Non c'è complessità, dobbiamo solo assaggiarlo. Questi circondano il giglio. 5 foglie dure circondano il giglio. E queste 5 foglie sono chiamate salvezze. Non c'è assoluta salvezza in queste parole. Dobbiamo imparare ad ascoltare. Ascolta e desidera che tu sperimenterai. Queste 5 foglie dure che circondano la Shoshanah sono chiamate da una parte difficili e dure e dall'altra parte sono salvezza, salvataggio. E sono 5 cancelli. Cancelli significa che qualcuno o qualcosa può attraversarlo. Qualcuno nel corso che sta leggendo un libro mi ha detto che nel libro erano menzionati i cancelli del dolore. Gli ho detto che non c'è tristezza nello spirituale. L'abbiamo tradotto in questo modo, ma non è il vero significato della parola. E su questo segreto è scritto. Da qualche parte nella Torah c'è un poema. Alzerò un calice di salvezza, che è il calice di benedizione. Qui abbiamo informazioni enormi e quando provi a comprendere questo con la tua testa, tu ti perdi. Deve stare su 5 dita e non di più, proprio come il giglio che è seduto sulle 5 foglie dure, ed essi, queste 5 foglie difficili, stanno opposte alle 5 dita. Quindi queste 5 foglie dure, quando parliamo della coppa delle benedizioni e non del giglio, sono le 5 dita dove lei sta su e la coppa è il giglio. Dal giglio infine viene la benedizione, la luce. Il giglio è il Keter che siede nell'Azilut e da lì sono uscite le 5 foglie dure. E su questo giglio è la coppa di benedizione. Sii paziente, la foschia si schiarirà al più presto. E dal secondo nome di Elohim, così dal momento che c'è scritto nella Torah, e Hashem si librava sulle acque. Fino al nome Elohim per la terza volta ci sono cinque parole. Qui ci sta dicendo che queste foglie si riferiscono alla Shoshanah. Tra il primo e il secondo nome di Elohim ci sono 13 parole che si riferiscono alle 13 qualità di misericordia. Ci sono anche altri confronti. Il giglio è sopra e 12 buoi sono sotto nella Bria. E qui, tra la seconda e la terza menzione del nome Elohim, ci sono 5 parole. Queste 5 parole della Torah si riferiscono alle 5 foglie dure. Il nome Elohim è utilizzato e che si riferisce a una mancanza. E ora lui elenca queste parole. Queste sono, aleggiava. La Torah non usa il passato. È scritto come aleggiava. È un processo che continua a trovare posto nel tempo presente. Sopra la superficie, le acque, e lui disse che essi sono opposti, paralleli in relazione a relativi alle 5 foglie come menzionato sopra. Ci sta dicendo che queste 5 parole dalla Torah, che sono menzionate tra il secondo e il terzo nome di Elohim, essi riguardano il giglio a 5 foglie. Da qui e oltre, su dove è detto nella Torah. Solo dopo la terza volta che il nome Elohim è menzionato ci sta Elohim, c'è la luce, eccetera. La Torah discute anche il processo di origine dalla Nukva nel principio all'atto di creazione. Questa è la luce che è stata creata e nascosta ed è stata integrata nel legame, il quale è entrato il giglio e fa emergere in lei la Shoshanah, la Nukva, seme. E quello è chiamato albero da frutto, in cui vi è seme. Questo albero ha seme in se stesso. E quel seme è trovare nel segno del legame, veramente. Anche quando sei un rabbino e leggi questo, vuoi fermarti. Non è necessario leggere l'intera Torah, la Kabbalah e lo Zohar. Ogni cosa che è scritta qui nello Zohar ha enormi rivelazioni e quando lo impacchettiamo lentamente lo sperimenteremo in noi stessi. Ci sono così tante informazioni, potere e luce in esso. Abbiamo ora tradotto un paragrafo. A volte Sulam dà un pezzo di traduzione e poi dà un commento, e a volte, come questo paragrafo, dà in una volta tutta la traduzione e poi dà un commento. Non ho trovato nessuno in grado di insegnarmi questo. Devi soffrire, devi desiderare di vivere in esso. Supponiamo che qualcuno sia molto malato, Hashem non voglia, e lui sa che in Australia c'è un grande medico che potrebbe curarlo. Cosa fa l'uomo per raggiungerlo? E per noi si apre. La vera salvezza è davanti a noi. Sono stato da molti rabbini e l'ho cercato in ogni persona. Nelle generazioni precedenti solo pochi portavano il seme spirituale, ma non più in questa generazione. Non è necessario perché abbiamo lo Zohar. E qui troviamo il seme e questo seme ci porterà lo Zohar. Non devi andare in nessun posto perché puoi trovare la salvezza solo nello Zohar. In questo modo molto semplice non puoi trovarlo da nessuna parte. Da me non viene nulla, le semplici parole mi saltano fuori e abbiamo il privilegio di ricevere e dare la benedizione. Dall'interno devi essere come Rachel, la moglie di Yaakov. Lei ha chiesto dei figli. Spiegazioni di parole, 5 dure, forti, difficili, foglie. Questo è il segreto delle 5 Gvurot. Gvura è anche una sfira, ma è un'altra forza. Poi Chassadim è la forza del lato sinistro, il potere della ragione, la severità della legge. dalla Nukva che riflette i suoi 10 Sfirot, luce che fa salire la Nukva da fusione-collisione. Ogni comprensione è costruita secondo la fusione-collisione, attraverso la via della fusione-collisione. Nell'ebraico moderno questo è chiamato coito. Dobbiamo superare questa associazione con o contro l'alta luce. Così la Nukva lascia le 5 Gvurot, or Koser, la luce riflessa che ascenda attraverso la fusione-collisione contro l'alta luce, luce che entrerà in lei. Lei porta in alto da se stessa la luce riflettente. L'intero universo è costruito secondo questa fusione-collisione, Zivug de Akka. Ascendere significa comprensione. Puoi capire solo di più confrontando ciò che vuoi comprendere. Puoi fare solo questo attraverso la fusione-collisione. Quella è chiamata luce di Din, severità. Or Koser è la luce di severità. Ogni cosa che sarà riflesso dal basso è chiamato Or Koser, Or Din, luce di severità. E ogni cosa che vuole entrare è la luce di misericordia. Quando la luce di severità sale dal basso e vi entra la luce di misericordia, poi parliamo di Zivug de Akka, una fusione-collisione. La luce dal basso fa come cancelli in cui la luce della misericordia, la luce che dà vita, la quale viene dall'alto, può passare attraverso. C'è scritto nella Torah, lascia che i tuoi cancelli siano aperti, così il Creatore può entrare. Il Creatore è la luce della misericordia. La fusione-collisione significa che l'inferiore fa lo sforzo e desidera venire in armonia con il superiore. Perché le 10 Sfirot della luce diretta? La luce diretta non è ancora osservata nei Kelim, sebbene entri. Sono chiamati 5 Kassadim, Ka, Ga, Ti e NH. Questa è un'abbreviazione di Kesed, Gvura e Tiferet e di Netzach e Od. E sono incorporati nei 5 Gvurot Ka, Ga, Ti, NH di Or Koser. L'inferiore è incorporato nel superiore. E il superiore è sempre incluso, circondato dall'inferiore. Un parzuf ne include un altro, viene come era sopra, proprio come con i paralumi. Dall'interno c'è la forza della luce ed è inclusa mediante qualcosa che lascia la luce passare solo più offuscata. È la stessa luce solo da un'altra qualità, e questi 5 Sfirot di Chassadim sono incorporati, entrano in un panno. L'inferiore è come un panno nel superiore. È difficile da spiegare in una lingua terrena, ma è l'unico strumento che abbiamo. Questi 5 Chassadim, che provengono da sopra, ma non entrano ancora, sono incorporati o si incorporano nei 5 Gvurot della luce riflettente. È chiaro ciò che sta scrivendo qui, ma sta a noi di venire in familiarità con esso. Inoltre, questo libro dello Zohar è la prima edizione di 21 libri dello Zohar. È il libro più importante perché tutte le comprensioni sono qui. E quando li avrai esaminati tutti, tutto è qui, anche il commento più pieno. In questo libro puoi trovare ogni cosa per venire a compimento. Ognuno di voi può inalare questo come strumento per se stesso. E queste 5 foglie dure sono punti di forza e di severità che sono presenti nello schermo. Lo schermo è qualcosa che ripara, protegge uno e l'altro, e per questo abbiamo bisogno di forza. Quel Masach schermo trattiene l'alta luce, la quale vuole entrare, trattiene per essere incorporato dallo schermo e dal basso. Prima di ogni cosa sta costruendo uno schermo in sé, solo per qui e non altro. Questo è sempre necessario per non fare errori. E passo dopo passo puoi far crescere la forza per lasciarla entrare. Se non lasci che nessuno entri, neanche la luce, che cosa accadrà poi con te? Quando compri un piano e lo lasci stare in salotto senza suonare il piano, dopo pochi anni puoi conservarci le patate ma non suonare più il piano. Devi suonare oltre anche con il tuo interiore e non con il masak, erigere lo schermo e dire solo qui e non oltre. Ogni volta devi far crescere la forza per lasciarla entrare, anche quando è goccia a goccia. Più ricevi e la ricezione non è per te stesso, puoi lasciarlo entrare. Ecco perché ora vengono menzionate solo 5 foglie dure, perché lei, la Shoshanah, non è ancora capace di fare una fusione con loro. Questi 5 Sfirot, Kassadim, che vengono a lei. Lei ha ancora 5 foglie dure, non è adatta per la fusione, per lo Zivug, con queste 5 luci di Hassadim. Guarda una ragazza di 10 anni, si comporta come un animale selvatico, cammina come un ragazzo, ma più tardi questo cambierà e poi ci sarà Hassadim, la misericordia è in lei. Vedi lo stesso nello spirituale. Prima ogni cosa è grezza nella Shoshana. E in quel momento in cui cresce, quando il suo schermo viene in fusione con l'alta luce, i Kassadim, quindi quando c'è interazione. Queste 5 foglie dure sono chiamate poi 5 Gvurot, come è menzionato sopra. È importante capire l'esperienza di che cosa si tratta, perché ogni comprensione, ogni ricezione della luce e ogni ostacolo per ricevere la luce è dipeso da ciò che voglio per provare a dirtelo. Solo lo Zohar può dirlo. Seguiamo ciò che lui sull'Am ci sta dicendo. Vedi disegno 9. La sua spiegazione inizia con le 5 foglie dure. Prima ci aveva detto della Nukva, Shoshanah, con una sfirah sopra al Parsa e al Parsa e 9 sfirot sotto nel Briah. Poi aveva detto che ci sono 13 foglie, perché 13 e 10? Più tardi otterremo una buona spiegazione. E ora ci sta dicendo che ci sono più di 5 foglie. Solo quello che è sopra l'acqua è giglio e quello che è sotto l'acqua non è ancora venuto fuori. Intorno al giglio in Azilut vennero 5 foglie dure. Queste 5 foglie dure sono il segreto dei 5 Gvurot della Nukva. E questi sono i 10 Sfirot di Or Kozer. Prima che continuiamo, mi piace spiegarvi qualcosa su Zivug de Akkah. Disegno 9. Interazione tra luce e Kli. Zivug de Akkah. Zivug è fusione. Akkah significa collisione. Nulla si può produrre senza Zivug de Akkah. È su come lo stai facendo. Ogni cosa è qui per portare frutti. Il superiore dà sempre seme all'inferiore. Non che l'inferiore sia meno, perché dove sarebbe il superiore con il suo seme se non ci fosse l'inferiore? Tutto è costruito in questo modo. Con l'apprendimento o la lettura è lo stesso. Se leggi un libro, quale libro non ha importanza, quando impari da un libro significa che sei l'inferiore rispetto al libro, altrimenti non impareresti dal libro. Il contenuto del libro, il soggetto, non è altro che seme e ti rendi ricettivo dall'apprendimento, a sforzarti per capire l'argomento, a lasciarlo entrare. Ti rendi come Nukva, l'elemento femminile, il ricevitore. In altre circostanze puoi dare il contenuto del libro a un'altra persona e poi sei nella qualità dell'elemento maschile. Prendi un uomo nel nostro mondo. Per quanto riguarda sua moglie, è suo marito, è il donatore di sua moglie. D'altra parte, quando si sveglia la mattina e va al lavoro, va dal suo capo. E fra i colleghi a suo lavoro vedi anche la relazione inferiore-superiore, anche nei Paesi Bassi, dove tutto è molto collegiale. Hai datore di lavoro e dipendente, colui che dà è quello che dà seme all'inferiore. Tutto ciò che è dato è seme, quando è conoscenza o altro. E riguardo ai suoi figli lui è superiore, ma riguardo al suo capo è inferiore, e deve prendere gli ordini del suo capo, perché egli è superiore. Solo nello spirituale è il principio che colui che è superiore deve dare di più, ma dare in un altro modo, perché le relazioni sono diverse nel nostro mondo. Chi può dare di più è superiore. Se vuoi essere superiore, devi dare di più. E quando sei disposto a dare di più, significa che c'è progressione. Non che impari più pagine dello Zohar, ma come conseguenza del tuo studio sei preparato a dare di più da te stesso. Un grado superiore è sempre l'aspetto maschile e quello inferiore è sempre l'aspetto femminile. Il compito del maschio è dare alla femmina e la femmina deve ricevere e darlo ai suoi figli. In questo modo si costruisce. Possiamo anche vederlo nella Malkut, nella Nukva. Zivug de Aka può trovare posto solo quando uno è pronto, quindi solo a Malkut e non ad un'altra sfirà. Nessuna sfirà è pronta perché abbiamo detto che abbiamo bisogno di 5 tappe per arrivare ad una condizione adulta e solo un adulto può fare zivug. I bambini non possono venire alla fusione. Ecco perché zivug è sempre nella Malkut. Più tardi, quando c'è una particolare correzione in Azilut, il Tikkun accade come viene al Yesod, e dietro lo Yesod la Malkut si attacca com'era, ma lo Zivug è sempre alla Malkut. C'è sempre luce e Kli e tra loro c'è interazione. La luce dà e il Kli fa come se fossero i cancelli aperti per la ricezione. Per avere la forza di aprire i cancelli, per ricevere la luce, deve esserci una fase che deve crescere nella Nukva, così che lei sia capace per il ricevere. Quando era piccola aveva solo una sfirà e 9 sotto. Quello era ogni cosa che aveva. Ogni cosa è stata creata per diventare alla fine un adulto, il quale è la legge. Non puoi dire che vuoi essere per sempre un bambino. Tutto deve arrivare alla sua piena crescita, con dolore, con malattie, ma deve diventare adulto. Adulto significa fondersi con il superiore. Non puoi dire io non voglio questo o che odi l'aspetto maschile. La femmina interiore deve costruire 10 sfirò in se stessa. Devi sollevare la forza per prendere quante più sfirò possibile. Quello è l'adulto. Kli può essere tutto. Quando leggo un libro sono il Kli e il contenuto del libro è come luce. Quando bevi una tazza di caffè diventi come il desiderio per il caffè, il ricevitore, e il caffè è la luce, il donatore. Dipendente dalla forza del Kli verrà effettuata una fusione. Tutto dipende dalla Malkut in prospettiva, quando il desiderio è fatto in modo tale da poter osservare 10 cose in te stesso, diciamo che c'è un desiderio perfetto e una ricezione perfetta, quindi puoi gustare i 10 sapori. Il giglio sotto le spine è al tuo livello per quanto riguarda il tuo desiderio di correggere, se si tratta di caffè o altro. Quando parliamo del giglio, Shoshanah, allora parliamo della costruzione generale nell'intera struttura della creazione. Quando non hai abbastanza forza, puoi ricevere solo una sfirah Keter, e qui può venire solo la luce più piccola, la luce di Nefesh, e così il tuo sviluppo continua. È lo stesso con Shoshanah. il creatore l'ha creata in modo tale che abbia una sfira sopra e 9 sotto. E naturalmente dal nostro comportamento, attraverso preghiere ad esempio dalle anime che lavorano qui sulla terra, lei può essere stimolata a crescere e così i 9 sfirot possono venire sopra l'acqua. L'intero genere umano contribuisce insieme in un modo alla completezza della Nukva. La Torah parla anche di questo. Sara, che non poteva avere figli, non poteva sopportare e più tardi ha avuto un bambino. È tutto sui punti di forza, non una parola su persone. Vedi disegno 9. La luce più bassa entra nel cli più alto. Cli Keter riceve la luce Nefesh. Quando un cli è capace di ricevere solo una luce, quello è l'unico che sta sopra le acque. E quando due chelim possono ricevere, ce ne saranno due sopra l'acqua. Sulam parla anche di Or Koser, la luce riflettente. Come può entrare la luce? Il cli mette sempre un masach, uno schermo davanti alla luce, così la luce non può entrare proprio, così perché altrimenti riceveremmo la luce senza meritarla e non avremmo il gusto di ciò che riceviamo. Malkut viene sempre prima da sopra al Keter, proprio come con la Shoshanah. La prima condizione di correzione è che ci sono 10 sfirot sotto e 0 sopra. Tra loro c'è la Parsa, che significa separazione. La seconda situazione è la condizione del giglio sotto le spine. Questa è la situazione in cui una sfira è sopra la Parsa e 9 sono sotto. Solo la Malkut può riflettere la luce. Nella prima situazione non c'è forza per ricevere la luce. 5 luci sono sopra e 5 Kelim sono sotto. La luce entrerà nel Kli e il Kli ha solo la forza di dire no. Non lascia entrare la luce. È come se dovessi sederti a un tavolo reale e dire di no per la cena solo perché sai che la mangerai per te stesso. La seconda situazione significa che il giglio può riflettere una luce, con una luce che già era venuta a un accordo. Hai un decimo della comprensione di una sfirà. E questo può essere qualsiasi cosa tu possa capire, gusto o qualunque comprensione. Un anno fa non sarei stato capace di capire qualcosa dello Zohar. Può andare molto veloce, non è che devi imparare per molti anni. 3 anni fa ho iniziato e non riuscivo a capire nulla, sebbene era buono essere impegnato con lo spirituale. Il Messia viene dallo Zohar, quindi tutti noi dobbiamo imparare lo Zohar. Ogni anno ho iniziato a provare, ma solo ora sono così impegnato con esso che è dato a me e può precedere il processo trasmettendolo. Quando lo ricevi per un decimo, superi ciò che è scritto nella tua comprensione e non nella comprensione generale. Questo significa che puoi riflettere la luce di Zohar e allora puoi ricevere un po'. Quando c'è solo riflessione e non ancora comprensione, anche quello è buono. Quello che stiamo facendo qui è che si sta costruendo un po' di cli dall'ascolto e dal desiderio. Cosa significano queste 5 foglie? Prima c'era una sfira sopra e 9 sotto. Lo schermo, il masak, la resistenza alla luce aumenteranno. La sua forza inizia a crescere, proprio come una ragazza che diventa adolescente. Così 5 schermi entrano in lei, vedi disegno 9. Provo a spiegartelo, non è facile perché come puoi disegnare lo spirituale? In lei arrivano 5 punti di forza come potenziale nel masak. Viene creata una sorta di schermo, ma non ha ancora la forza di riflettere. Con il riflesso fai per così dire dei cancelli, per cui la luce può entrare, ti apri ampiamente, così la luce può entrare e qui non è ancora possibile che la luce entri. guarda una ragazza che dice no, no, no. È come un animale selvatico, come un ragazzo. Ci sono punti di forza in lei che lei sperimenta come severi. Vuole essere dura perché sente i guvurò, la forza della terra, la resistenza. Più tardi deve ricevere e allora ha bisogno di questi punti di forza. Gli uomini sembrano difficili, ma è diverso come con le donne. Non è la stessa cosa. L'uomo e la moglie sono molto diversi. Naturalmente uomini e donne hanno entrambi il maschile e il femminile, loro stessi, perché ogni cosa consiste di questi due punti di forza. E ancora c'è un mondo di differenza tra loro. In lei entrano questi cinque punti di forza che si chiamano Masak. E queste cinque forze che sorgono in lei non hanno ancora nessuna forza per riflettere la luce, per lasciare entrare la luce, e queste sono chiamate le foglie dure del giglio. È una specie di metafora ciò che lo Zohar ci sta imparando, ci sta insegnando. Lei, il Keter, è pieno di luce e queste cinque forze, cinque Gvurot, cinque foglie dure, la racchiudono. Più tardi Sulam dice che sembra diverso, ma ciò è per dopo. Questi cinque punti di forza che sono nel suo potenziale sono le 10 Sfirot della luce riflettente. Qui vediamo che Sulam lo rende più difficile del necessario. Più tardi spiegherà. Ma prima ci sta dicendo che queste sono le Gvurot, ma più tardi, nello stesso paragrafo, ci sta dicendo che sono le prime cinque foglie dure. Le foglie dure significano che lei non può ancora riflettere la luce. Quando i punti di forza della Nukva aumentano nella forza, così lei può riflettere, che la luce può entrare, allora noi parliamo delle cinque Gvurot. La forza di Nukva sono le Gvurot. Zeirampin ha la forza, la qualità di Chasadim, la misericordia, il dare ed è la forza maschile. Malkut vive dalle Gvurot, Din, l'imitazione, e quello è sempre l'aspetto femminile. Ricorda questo. Nel nostro mondo ogni cosa sembra opposto perché non siamo ancora corretti. La forza di Keter, Kochmah e Binah, è Kochmah. Anche Binah ha Chasadim, ma solo nel germe. La forza elaborata di Chasadim è in Zeirampin, e la forza elaborata dei Gvurot è nella Malkut. Entrambi i punti di forza sono presenti nell'universo. Qui parla dei cinque Gvurot, quando lei ha i cinque punti di forza per riflettere la luce che viene. Quando ha solo i cinque Gvurot nel germe, nella forma delle cinque foglie dure, allora racchiudono l'unica Sfirah. Cinque foglie dure significano la Nukva, che non è capace di riflettere la luce per i 9 Sfirot, che giacciono nella Bria. Non è ancora nella posizione di portarli su tutti e 9, in modo da poter sperimentare tutti i 10 Sfirot. No, io vado avanti. La luce di Zeirampin che entra nella Nukva, lei apre i cancelli, per così dire. I cancelli sono le Gvurot, e lì la luce Chasadim può entrare. Chasadim è più sottile, luce superiore, e quando la luce più sottile entra nella luce più spessa, è da vedere dal grossolano come un cancello. Proprio come il Ritzea, che divenne due colonne per la nazione Israel. E questo è tutto ciò che riguarda e non sul mare, che non ci interessa. Può darsi che ci sia stato un fenomeno naturale, se fu predestinato da cadere nella creazione, ma non è affare nostro. La donna ha Gvurot, Din. Chi pensa che una donna è dolce non ha assolutamente alcuna comprensione di ciò che una donna è, che tipo di punti di forza sono in lei. Dopo migliaia di anni di commedia della religione, abbiamo fatto di lei un cuore dolce. Un uomo può imparare molto dalla donna, dai punti di forza che ha in se stessa. Guarda i punti di forza necessari del processo di nascita e la creazione del mondo. I punti di forza di una donna sono Gvurot. Lei vive di Gvurot, severità, ma non è abbastanza. Le Gvurot di una donna devono essere addolcite, deve venire la luce Chassadim, quello che viene dall'uomo. Quello effettua la vita in lei perché troppe Gvurot è tanto pesante. Là deve venire la forza maschile in lei e questo non significa nella nostra comprensione terrena che lei debba sposarsi. Ovviamente può essere più facile per lei, ma può anche diventare dura. Chassadim ha anche una parte destra e un lato sinistro, e il suo uomo le dà il Chassadim dalla parte sinistra, dalla sua parte sinistra, perché tutto deve essere in accordo. Come può un uomo dare a una donna in modo sano e non in modo rude e perverso che lei vuole fondersi? Prima lui deve svegliarla attraverso i suoi propri Gvurot, i Gvurot maschili, la forza del lato sinistro, per svegliare in lei i punti di forza per la fusione. Così prima la tira su dal lato sinistro. Chassadim è la forza che appartiene all'aspetto maschile e con Chassadim non può svegliarla. All'interno dei suoi Chassadim ci sono anche due punti di forza. Destra è Chassadim di Chassadim e a sinistra lui ha Gvurot della qualità di Chassadim. Un uomo porta lei prima al lato sinistro perché tutto è creato in accordo alle qualità. Una donna reagisce su un uomo dal suo lato femminile. L'uomo pensa che lui è duro ma poi mostra il suo lato femminile. Può essere attraente per una donna attraverso il suo lato duro, ma non a lungo, perché un uomo deve sollevare Chesed dopo lo Zivug, poi deve sollevare i punti di forza creativi, così lui può fare di più e non sollevarla e basta. Naturalmente è difficile sperimentare questi punti di forza, passo dopo passo raggiungeremo la fine. È stata una lezione difficile, ma anche questo è buono. Continua con il tuo proprio tempo.